Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Mauro Morelli. Secondo voto per Mauro Morelli. Sì. Che cazzo è Mauro? Luciana Castellina. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, era un fuori onda oggi durante lo scrutinio della Presidente della Camera, Laura Boldrini, nella prima votazione per il Presidente del nuovo Presidente della Repubblica, e quindi un fuori onda di Mentana che, mentre fa questa lunga diretta, dice che cazzo è questo Mauro Morelli, nel senso, uno di quei nomi saltati fuori così dalla fantasia dei parlamentari, come ne sono saltati fuori altri: Sabrina Ferilli, Magalli, Ezio Greggio, Giletti. Anzi, Magalli è stato proprio incoronato dal web. Sapete che questi giorni sembrava che fosse il più quotato e addirittura è salito al colle oggi pomeriggio, con tanti fan intorno che l'hanno incoronato per l'appunto presidente ideale. Pensate un po'. Comunque, il primo scrutinio è andato a vuoto, questo si poteva prevedere, ma sembra che si stia giocando in una partita a scacchi, forse per certi versi imprevedibile. Ci faremo poi spiegare, ma da chi è più addentro a queste cose, se effettivamente si tratta di imprevedibilità, di cose calcolate, di qualcosa che poi invece si ricompatterà più tardi. Insomma, parleremo senz'altro di politica, inevitabilmente stiamo parlando in questi giorni, oggi il primo giorno di votazioni. Poi ci soffermeremo anche su un fatto di cronaca che sembra avere una svolta, il delitto Ceste, e poi di molte altre cose. Come sempre, lo sapete, qui Effetto Notte, un sacco di notizie. Adesso vi sintetizzerò la giornata come sempre dall'inizio, e vi ricordo che avete sempre due modi di interagire qui con Effetto Notte e con me: gli sms al 349 238 6666 e naturalmente la pagina Facebook di Effetto Notte. Bene, quello che vi chiedo questa sera è: cosa ne pensate di questa mossa di Matteo Renzi, che sembra aver spiazzato Berlusconi e il patto del Nazareno, cioè quella di aver detto il nome di Mattarella come candidato del PD. Che ne pensate di questa mossa di Renzi? Intanto io vi racconto in sintesi la giornata. Quirinale, niente di fatto, fumata nera al primo scrutinio, il PD si compatta su Mattarella, per Berlusconi è stato tradito il patto del Nazareno. Grecia, il primo ministro Tsipras incontra il presidente del Parlamento europeo Schulz e dice: noi siamo contro l'austerità ma non faremo saltare il banco. ISIS, falliti i negoziati, il sedicente Stato Islamico annuncia: uccidiamo il pilota, disperato appello della moglie del reporter giapponese. Olanda, un uomo armato fa irruzione nella sede della TV nazionale. Asti, dopo un anno di indagini, svolta nell'omicidio di Elena Ceste, è stato arrestato il marito. Maturità, gli esami cominciano il 17 giugno, il ministero sceglie le materie, esce il latino e il classico e debuttano i nuovi indirizzi. Ovviamente in primo piano, subito per partire, la politica. Nella prima votazione oggi per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, iniziata intorno alle 15, il PD si è compattato, vi dicevo, sul nome di Sergio Mattarella, ma il primo scrutinio si è concluso con un nulla di fatto. Sono infatti state 538 le schede bianche. Sia il PD che Forza Italia avevano deciso appunto di votare scheda bianca, e questa è stata probabilmente l'unica cosa su cui oggi erano d'accordo, perché per il resto i rapporti tra i due partiti, soprattutto tra i due leader, Renzi e Berlusconi, sembrano proprio al punto più basso. Matteo Renzi ha forzato la mano avanzando la candidatura di Mattarella e mettendo Berlusconi di fronte a un prendere o lasciare. Il leader azzurro non ha molto digerito questa cosa, tanto da fargli ipotizzare delle possibili conseguenze anche sulla tenuta delle larghe intese sulle riforme. Ma sentiamo Renzi su Mattarella. Sono tante le donne e gli uomini che potevano assolvere a questa funzione, non ce n'è soltanto una. Ma dentro la discussione di queste ore noi abbiamo pensato di proporre una persona la cui esperienza personale, la cui solidità istituzionale sia nelle condizioni di garantire all'Italia del 2015-2022 sette anni di autorevole guida al colle. E per questi motivi la proposta che vogliamo formularvi è quella che riguarda Sergio Mattarella. Vorrebbe, poi sentiremo che cosa vorrebbe. Sentiamo anche come ha commentato Napolitano, che oggi è stato acclamato quando ha votato, e anche qualche fischio, per carità. Come ha commentato la figura di Mattarella? Io conosco bene, naturalmente, da quando era deputato, ed è persona di assoluta lealtà, correttezza e coerenza democratica e alta sensibilità costituzionale. E ora un ritratto di Sergio Mattarella. Più volte ministro, vice premier nel governo D'Alema, deputato per 25 anni e oggi giudice della Corte Costituzionale, Sergio Mattarella, siciliano, classe 1941, è figlio di Bernardo, politico di lungo corso della Democrazia Cristiana, ma soprattutto fratello di Pier Santi, assassinato dalla mafia il 6 gennaio 1980, mentre era presidente della Regione Sicilia. Da quella tragedia nasce la sua decisione di dedicarsi alla carriera politica, lui che avrebbe voluto fare il professore di diritto pubblico. È deputato dal 1983 al 2008, prima per la Democrazia Cristiana, poi per il Partito Popolare Italiano, infine per la Margherita. Nel 1989 diventa ministro della pubblica istruzione nel governo Andreotti, ma nel 1990 si dimette con altri quattro ministri della sinistra DC per protesta contro la legge Mammì, considerata un regalo a Berlusconi e al suo impero televisivo. Berlusconi, che quattro anni dopo andrà al governo grazie alla legge che da Mattarella prende il nome, il Mattarellum, quell'incastro tra collegi uninominali e quote proporzionali. Dall'aprile 2008 esce dalla scena politica attiva concludendo il suo mandato parlamentare e il 5 ottobre 2011 viene eletto giudice della Corte Costituzionale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E oggi il giorno in cui in Grecia c'è stata la visita al neo primo ministro Tsipras del presidente dell'Europarlamento Schulz, e domani toccherà il presidente di turno dell'Unione Europea, e sembra che ci siano spiragli di dialogo. Tesse la tela dei rapporti con l'Europa e il governo di Alexis Tsipras, incontrando il rappresentante più morbido delle istituzioni di Bruxelles, quel presidente dell'Europarlamento Martin Schulz, le cui posizioni sull'austerity sono ben diverse da quelle della connazionale Angela Merkel. Al termine dell'incontro Tsipras apre: la Grecia ha un progetto di grandi riforme e non vuole insistere nell'errore dell'austerità. Atene resta però intenzionata a trattare con l'Unione Europea e non vuole far saltare il banco. Coloro che puntano al contrario molto presto saranno smentiti, ha avvertito il leader di Syriza, che ha definito l'incontro utile e costruttivo. Il governo greco è pronto ad aprire un dialogo con i partner, ne sono contento, gli ha fatto eco Schulz, che ha aggiunto: certamente le discussioni saranno accompagnate da divergenze, ma ho visto che la Grecia cerca soluzioni di comune accordo. Schulz ha commentato molto favorevolmente l'intenzione del governo ellenico di puntare sulla lotta all'evasione fiscale. I contatti tra Atene e l'Europa proseguiranno domani con l'arrivo del presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, prevedibile toni molto meno accomodanti, ma difficilmente si arriverà ad una rottura. Proprio oggi il presidente della Commissione Juncker ha ribadito: cancellare il debito della Grecia è escluso, gli altri paesi della zona euro non lo accetterebbero. Parallelamente il neo ministro delle finanze Yanis Varoufakis inizierà un giro delle capitali che lo porterà martedì a Roma e successivamente a Londra e Parigi per parlare di rinegoziazione del debito. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. E dalla Grecia all'Olanda, dove un uomo armato, notizia di poco fa, ha fatto irruzione nella sede della TV nazionale olandese, lo riporta l'agenzia ANP, precisando che le trasmissioni sono state interrotte. E siamo sull'economia, economia italiana. Secondo la fotografia dell'Istat, i consumatori sembrano fiduciosi, le imprese più ottimiste e un mercato immobiliare che cresce, anche se gli stipendi restano sempre al palo. Tra luglio e settembre dello scorso anno i mutui sono saliti di quasi il 14%. Finalmente le banche hanno deciso di tornare a prestare soldi alle famiglie, dice il Codacons, ma attenzione, la ripresa è lontana. Nel 2007, prima della crisi, i mutui concessi erano pari a 62,7 miliardi di euro, nel 2013 solo 17,6 miliardi. Gli italiani però sembrano ottimisti e a gennaio l'indice che misura la fiducia di imprese e consumatori è cresciuto. Resta il tasso dolente, gli stipendi. Nel 2014 le retribuzioni contrattuali orarie sono rimaste nulle nel settore pubblico, nel privato sono salite dell'1,3%, incremento più basso dal 1982, quando è iniziato il calcolo della serie storica. Sta aumentando il ritardo della definizione dei contratti e se non si rinnovano i contratti di lavoro è chiaro che sempre di più ci sarà una perdita di reddito da parte dei lavoratori. Così ci spiega Gigi Petteni, responsabile mercato del lavoro della CISL, e i numeri confermano. A dicembre ad aspettare il rinnovo erano 7,1 milioni di dipendenti, il 55,5% del totale. Livia Zancanera, Radio 24, il Sole 24 Ore. ore. Visto che stiamo parlando di economia, di soldi, parliamo anche di fisco, di Telefisco 2015, il convegno annuale organizzato dal Sole 24 Ore, che ha avuto numeri da record oggi, vero Mauro Meazza? Sì, buonasera, ciao. Buonasera Roberta. Sì, effettivamente è stata un'edizione molto molto seguita, abbiamo avuto un afflusso ampio nelle sedi, nelle oltre 114 sedi, abbiamo superato sicuramente i 100.000 partecipanti, vanno calcolati poi tutti quelli che sempre più lo seguono in telematica. La telematica è un po' diventata oramai il cardine attorno al quale ruota non solo Fisco ma anche Telefisco. Senti, che cosa succede durante Telefisco? Perché tutto questo interesse? Perché noi abbiamo l'opportunità di presentare le novità fiscali presentate dai nostri esperti, novità su cui torniamo domani con 7 pagine sul Sole 24 Ore di domani in edicola e anche su iPad naturalmente, su tablet, e poi ci sono i chiarimenti, le risposte che vengono fornite lì direttamente dall'Agenzia delle Entrate, e poi viene appunto, capita come è capitato oggi, che venga il direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi e ci ha annunciato ad esempio siamo pronti con il provvedimento per il via alla voluntary disclosure. Vero? Traduzione? Scusami, è vero, hai ragione, hai perfettamente ragione. Chiedo scusa anche agli ascoltatori, cioè il rientro dei capitali, la riemersione dei capitali che sono detenuti illecitamente all'estero o anche in Italia. È una misura per rimettersi in regola, una finestra che segue, diciamo, anche tutte le iniziative internazionali di contrasto all'evasione tributaria, alla detenzione di capitali illeciti, di asset illeciti all'estero. E il resto domani sulle 7 pagine del Sole 24 Ore. È così. Grazie Mauro Meazza. Grazie a voi, grazie. Ciao, a te. Ciao Mauro, buon lavoro, buona continuazione. E adesso ci spostiamo sulla cronaca con la novità, vi dicevo, sull'omicidio di Elena Ceste. Con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere è stato arrestato oggi il marito di Elena Ceste. Un odio maturato da tempo per una donna che riteneva infedele e inaffidabile, così ha detto il GIP di Asti. Poi ne parleremo più tardi, anche cercando di ricostruire la trama di un giallo che dura ormai da un anno. Ci sono novità anche per quanto riguarda la maturità, nel senso che comincia il 17 giugno, l'ha annunciato il Ministero, che sceglie anche le materie, esce latino al classico, matematica per lo scientifico, cambia le modalità di scelta per il linguistico e debuttano i nuovi indirizzi. Per chiudere il calcio, calciomercato soprattutto, ci racconta tutto Dario Ricci. Sì, buonasera, 24 ore per pensarci su dopo l'incontro con Adriano Galliani, poi Mattia Destro ha detto sì, è lui il nuovo centravanti del Milan, dice addio Destro a quella Roma che non è riuscita a trovargli spazio alle spalle dell'eterno capitan Totti. Staremo a vedere ora come andrà l'avventura in rossonero, però per quanto riguarda sempre la Roma, ora è via libera al tentativo di acquistare dallo Shakhtar Donetsk l'attaccante brasiliano Luiz Adriano, ritorna dalla Coppa d'Africa Keita, visto che il Mali è stato eliminato, ma i giallorossi perdono Strootman per un nuovo infortunio al ginocchio, previsto un nuovo intervento, uno stop di almeno un mese, ma l'olandese rassicura sulle sue condizioni. Intanto, sempre per quanto riguarda il mercato, sarebbe ormai fatto il passaggio di Cuadrado dalla Fiorentina al Chelsea. Per il momento è tutto. Grazie Dario Ricci, e prima di aggiornare chi sta viaggiando e sta ascoltando con molta attenzione Effetto Notte, volevo leggere alcuni dei vostri messaggi a proposito della mossa di Renzi oggi con Mattarella e quello che è avvenuto e se dovesse disgregarsi il patto del Nazareno. Clotilde dice al 349-238-6666 e quindi il coniglio, chiama così Renzi, ha fatto fuori il caimano, siamo tornati ai giochi sporchi della Prima Repubblica, sono schifata e ho sempre più paura, ma la sinistra si è fermata in Grecia, dice Clotilde. Poi invece X o AX, capo dello Stato eletto o non eletto nel mondo del cittadino comune, domani è sempre un venerdì qualunque, noi giochiamo la partita della vita vera, d'accordo, però con qualche influenza ce l'ha anche questa cosa se vogliamo stare comunque nella vita collettiva. Roma, con questa girandola di nomi, Diometti, sarebbe giusto se tutte le grandi elettrici votassero una donna. Questo è Giuliano da Roma, scusate, Giuliano da Roma, mi piace che scriva un uomo questo messaggio. E poi grazie anche per altri messaggi. Anna dice tutta tattica, Renzi ha fatto il nome di Mattarella solo per ricompattare apparentemente il PD, per fare bella figura e sembrare uniti, ma il vero nome frutto dell'accordo del patto del Nazareno verrà fuori in seguito. Qualcun altro sta scrivendo a questa tesi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma tra poco cercheremo di capire se è proprio così, che cosa c'è sotto. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Pronti adesso per soffermarci sulla giornata politica, ma prima di tutto vi elenco un po' di nuovo, visto che c'è stata la pausa, tutte le notizie principali di oggi. il Quirinale, Renzi punta su Mattarella, il nome ricompatta il PD, prima fumata nera per oggi, per sabato pronti almeno 580 voti. Berlusconi però non ci sta, dice il Presidente del Consiglio, ha tradito il Nazareno, il Movimento 5 Stelle sceglie il giudice imposimato, applausi e selfie per Napolitano quando è andato a votare. Atene non fa saltare il banco, positivo è stato l'incontro tra il Presidente dell'Europarlamento Schulz e il Primo Ministro Tsipras, il governo dice basta con l'austerità e reintegra 3.500 statali. Falliti i negoziati con l'ISIS che annuncia uccidiamo il pilota Giordano, disperato appello della moglie del reporter giapponese, anche lui tra gli ostaggi. Elena Ceste fu uccisa in casa, in manette il marito, trovata morta tra l'altro nell'Avellinese, la studentessa scomparsa mercoledì scorso. Per il tesoro c'è una ripresa diffusa nell'economia italiana, anche le imprese hanno fiducia, boom di mutui, ma le retribuzioni sono sempre a un minimo storico. E poi la maturità che comincia il 17 giugno, il Ministero ha scelto le materie, esce il latino e il classico, debuttano i nuovi indirizzi. Quindi soffermiamoci sulla giornata di oggi. Vi dicevo, c'è stata la prima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Come si immaginava, fumata nera, nulla di fatto. Sono stati 975 parlamentari partecipanti, presenti e votanti alla prima votazione, 538 le schede bianche, che già si era annunciato, no? Questa strategia delle schede bianche. Ferdinando Imposimato, magistrato, politico, nonché presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, tra l'altro il preferito nelle Quirinarie del Movimento 5 Stelle, ha ottenuto 120 voti, Vittorio Feltri 49, Luciana Castellina 37, Emma Bonino 25, Stefano Rodotà 23 e poi gli altri, avete sentito anche nomi piuttosto curiosi. E poi questa mossa di Renzi, mossa sorpresa oppure no? In realtà, se avete seguito ieri, spero doverosamente effetto notte sino all'ultimo, proprio alle 22, mentre stavo chiudendo, c'era un'agenzia di Guerini, vice segretario del PD, che diceva iniziamo con Mattarella e finiremo con Mattarella, ed è stata la prima ufficialità, diciamo, di un nome espresso dal PD, perché diciamo era stato segreto fino ad allora, e a quel punto ieri intorno alle 22 Guerini ha detto così. Quindi oggi cosa c'è stato? Un colpo di scena, un qualcosa che era già previsto? Lo chiedo di aiutarci a capire questa giornata particolare. Antonio Polito, ciao Antonio. Salve, buonasera. Direttore del Corriere del Mezzogiorno ed editorialista del Corriere della Sera. Questa mossa di Renzi, secondo te, è stato un colpo di scena, un colpo da maestro per ricompattare appunto il PD? È stato un modo di spiazzare Berlusconi e tenerlo ancora un po', come si può dire, all'accio? Oppure c'è da aspettarsi un altro nome fino a sabato? No, io escluderei che c'è da aspettarsi un altro nome. I giochi sono fatti, il PD presenta... Non cerchiamo sempre quello che c'è sotto, prima guardiamo quello che c'è sopra. Ma ci hanno un po' abituati a questo, questo è il fatto. Perché forse certe volte esageriamo un po' in Italia a guardare quello che c'è sotto. Cioè va bene, purché prima sia chiaro quello che c'è sopra. Quello che c'è sopra è che ufficialmente il Premier e il partito di maggioranza relativa, che ha 450 grandi elettori su 505 che servono a eleggere il Presidente, ha candidato Sergio Mattarella. E che su questo nome sono già confluiti un numero tale di parlamentari, di deputati, di grandi elettori, tale da consentirgli di superare tranquillamente 505. Quindi se per caso alla quarta votazione Mattarella non ce la facesse, sarebbe una sconfitta politica bruciante per Renzi, che io tendo ad escludere. Quindi immaginare che lui si faccia battere per poi tirar fuori un altro nome mi sembra. Invece è certamente stato un colpo di scena, il colpo di scena maturato già ieri mattina per la verità, soprattutto è un colpo di scena il fatto che non abbia prima cercato l'accordo preventivo di Berlusconi, che davamo tutti per scontato, Berlusconi compreso, visto che nel patto del Nazareno c'era l'accordo implicito, se non esplicito, di eleggere insieme anche il capo dello Stato. Questo Renzi lo ha stracciata, questo accordo scritto o non scritto, presunto o vero, con gran irritazione di Berlusconi, che è il vero sconfitto di questa partita, perché praticamente sta un po' fregato, e si elegge il suo capo dello Stato, lo capo dello Stato che vuole, che ritiene giusto, con una maggioranza del tutto diversa, sia dalla maggioranza del Nazareno, cioè delle riforme con Berlusconi, sia perfino dalla maggioranza di governo con Alfano, perché neanche Alfano voterà per Mattarella, ma con una maggioranza diversa che comprende di nuovo per esempio Sell, Vendola, i dissidenti 5 Stelle ed altri pezzi del Parlamento. Questo è un cambiamento importante nella politica italiana, certamente rilevante. Quindi non rottamatore è stato definito da qualcuno, nel senso che ha ripescato comunque un uomo della Prima Repubblica come Mattarella, ex democristiano, che ha fatto tutto il percorso anche dell'Ulivo, del PD, tra i fondatori, anche se abbiamo ricordato il profilo, insomma l'alto profilo, no? Anche etico di Mattarella, però è pur sempre un uomo della Prima Repubblica. Rottamatore nel senso che dice con questa mossa da partita di scacchi ha un po' rivoluzionato la scena e anche la... l'asse dei partiti della maggioranza. Ma intanto bisogna dire che dopo 16 anni torna un democristiano al Quirinale, ed è questa è una notizia, perché pensavamo che fosse finita l'era dei democristiani. Mattarella è un democristiano di quelli, diciamo così, di lignaggio, di alto lignaggio e anche di tradizione, perché è una famiglia, la sua, siciliana di democristiani, che ha pagato anche un prezzo molto alto alla mafia, perché il fratello di Mattarella è stato ucciso, come Pier sappiamo, ed è un democristiano che poi ha scelto la strada della sinistra, dici, cioè è andato a fondare l'Ulivo, è andato col centro-sinistra, ecco. Però è un democristiano ed è un uomo della Prima Repubblica, che viene dalla Prima Repubblica, cosa che ci dovrebbe far riflettere sulla qualità del personale politico che abbiamo, che si è formato nella Seconda Repubblica. Io riflettevo ieri sul fatto che dei 10 presidenti di Camera e Senato che si sono alternati nella Seconda Repubblica e che in genere fornivano gli uomini adatti a essere eletti al Quirinale, avveniva sempre così, erano quasi sempre i presidenti di Camera e Senato a essere eletti, beh, di questi 10, con l'esclusione di Cassini, tutti gli altri sono inutilizzabili perché sono fuori dal gioco, fuori dalla politica, hanno litigato con i loro partiti, eccetera. Quindi in assenza di un personale politico degno di questo nome, la Seconda Repubblica, ecco che si torna all'indietro ai pezzi più pregiati della prima, perché poi non è che tutto fosse da buttare. Già. Senti, leggo brevissimamente alcuni dei tantissimi messaggi che stanno arrivando anche sulla pagina Facebook di Effetto Note. Laura dice: penso che nessuno di noi conosce i termini del patto nel Nazareno e che Mattarella non è ancora stato eletto. Maria Rosaria: se hanno il candidato, perché votano scheda bianca? Per compattare ed essere sicuri di eleggere al quarto giro? I franchi tiratori si formano in un secondo, mica hanno bisogno di tempo, dice Maria Rosaria. Vincenzo: Renzi è noi un vero politico e riuscirà a fregare quelli di Forza Italia. Giù il cappello. Riccardo: io lo ribattezzerei il pazzareno. Cristiano: l'eventuale elezione al Colle decisa così di pugno lascerà aperta la contesa sulla delicata maggioranza e futura nel governo se continuerà a esserci un PD sfilacciato e il Nazareno di oggi è nel cassonetto. Ecco, a questo proposito, che pensi della futura maggioranza, Antonio Pulito? È molto difficile da dire. Io penso che sia cambiato qualcosa di profondo. Questo anno di Renzi si è retto su un'ambiguità, cioè sul fatto che Renzi avesse in realtà due maggioranze, no? Una, diciamo così, che comprendeva la sinistra del suo partito, la minoranza, e una che comprendeva Berlusconi. Quando era necessario interveniva Berlusconi per neutralizzare quella che gli mancava per le polemiche interne al PD. Aveva un ricambio, insomma, diciamo. aveva proprio i due forni, diciamo una doppia maggioranza. Adesso se ne aggiunge una terza, che non è né quella di governo né quella delle riforme con Berlusconi, ma è una del tutto nuova, spuria, che comprende Vendola e i dissidenti SEL e comprende la minoranza PD. Potrà adesso giostrarsi su questi tre tavoli diversi, e soprattutto Berlusconi e Alfano continueranno a sostenere il progetto di riforme, che non è ancora finito. Ricordiamoci che né la legge elettorale né quella del Senato sono state ancora approvate. Questa è la vera domanda. Per il momento i messaggi sono che loro rimangono impegnati sul terreno delle riforme, ma io darei per scontato che qualche pensierino stanno facendo alla tattica che hanno seguito finora. Quindi Berlusconi sedotto e abbandonato, come ha detto la Meloni, Antonio? Direi proprio di sì. Berlusconi stai sereno, insomma. Ecco, guarda, letto così alla stessa fine. Fassina, intanto, esponente di rilievo della minoranza PD, ha detto con entusiasmo: è stato ricompattato il partito, ora clima è sereno e utile. Mentre Fiori, Marcello Fiori, coordinatore nazionale dei club di Forza Italia, ha detto: Renzi in questo modo ottiene tre risultati, compatta il Partito Democratico, e questo l'abbiamo visto, fa eleggere un capo dello Stato amico che non gli ruberà la scena, prepara le elezioni politiche anticipate. Sono abbastanza d'accordo, compreso l'ultima affermazione, perché vedi, oggi si è accesa una discussione: questo vittorio di Renzi allunga la legislatura o l'accorcia? secondo me non è detto che l'allunghi, perché potrebbe anzi essere il preludio a una, diciamo così, a un'accelerazione, perché insomma non si butta all'aria con tanta tranquillità il clima, diciamo così, le maggioranze, gli equilibri politici su cui si è retto finora il governo, se non si ha in testa anche la possibilità che tutto questo comporti un voto, un confronto elettorale. D'altra parte, una volta che fossero approvate queste riforme istituzionali, che altro resta da fare alla legislatura? Naturalmente bisogna vedere, perché adesso c'è un capo dello Stato, ci sarà, non è stato ancora eletto, pensiamo che ci sarà, e naturalmente in materia di scioglimento delle Camere il suo parere è molto rilevante. Antonio Polito, io ti ringrazio e mi sa che ci risentiamo quando ci sarà già questo nuovo capo dello Stato, vedremo se sarà Mattarella allora. Molto bene. Grazie Antonio. Grazie. Buona continuazione, ciao. Buona serata. Vediamo ancora qualche vostro messaggio prima di questa pausa per passare ad altri argomenti. Claudio, non ci si può fidare, prima fa l'accordo con Berlusconi per incassare voti sulla legge elettorale, sulla riforma del titolo quinto della Costituzione, poi per calmierare la sua maggioranza decide in assemblea la candidatura di Mattarella. E dice, non mi è piaciuto. Angela, è solo un gioco delle parti per ricompattare il proprio elettorato, sabato faranno pace, questo secondo Angela. Elena, da diverso tempo non capisco più, i politici vivono su di un altro pianeta, vivono in un mondo tutto loro. Intanto noi ci prendiamo uno spazio tutto nostro, tutto vostro, questo è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, potete continuare a commentare anche i messaggi al 349-238-6666, questione di momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, stavo guardando i vostri messaggi, continuano ad arrivare al 349-238-6666 e la pagina Facebook di Effetto Notte su questa mossa di Renzi che ha spiazzato Berlusconi e anche molte altre, anche se il nome già si era fatto ieri proprio sul finire di Effetto Notte. Ho detto che Guerrini, il vice segretario del PD, lo aveva detto proprio mentre stavo chiudendo la trasmissione. Dice questo ascoltatore, Mattarella il vero uomo da prima Repubblica e Renzi, poi ci sono molti altri commenti, però intanto vi ricordo le notizie principali della giornata, così avete ogni volta un riepilogo e poi passeremo a uno dei temi principali di oggi. Quirinale, niente di fatto, fumata nera al primo scrutinio, il PD si compatta su Mattarella, per Berlusconi è stato tradito il patto del Nazareno. In Grecia il primo ministro Tsipras incontra il presidente dell'Europarlamento Schulz e dice noi siamo contro l'austerità ma non faremo saltare il banco. ISIS, sono falliti i negoziati, il sedicente Stato Islamico annuncia uccidiamo il pilota Giordano, disperato appello intanto della moglie dell'ostaggio giapponese. Olanda, un uomo armato fa irruzione nella sede della TV nazionale, bloccato dalla polizia, l'uomo non avrebbe opposto resistenza. Asti, dopo un anno di indagini svolta nell'omicidio di Elena Ceste, è stato arrestato il marito e poi per la maturità il ministero annuncia che gli esami cominceranno il 17 giugno. Quindi parliamo dell'omicidio di Elena Ceste, oggi è stata la svolta in questa vicenda che sinora ha rappresentato un giallo praticamente che va avanti da oltre un anno, di cui si è parlato molto. Elena Ceste è donna di 37 anni di Costigliole d'Asti in Piemonte, madre di 4 figli, che era scomparsa da casa il 23 gennaio del 2014, si ipotizzò da prima una fuga, poi un suicidio, poi cominciò a prendere piede l'ipotesi che potesse essere stata uccisa e poi il suo corpo venne trovato 9 mesi dopo. Il 18 ottobre scorso, per caso, era praticamente poco distante dalla sua abitazione, era sommersa nel fango del rio Mersa. La svolta è rappresentata dall'arresto oggi del marito di Elena Ceste, che è Michele Boniconti. L'accusa di omicidio volontario premeditato, occultamento di cadavere, e c'è anche il movente che va ricercato, secondo il GIP Giacomo Marson del Tribunale di Asti, nell'odio maturato nel tempo, perché lui riteneva che la moglie fosse moglie e madre inadeguata e quindi in qualche modo da raddrizzare. Saluto Erika Di Blasi, buonasera Erika. Buonasera. Giornalista della Repubblica di Torino. Erika, tra l'altro mi sembra che nel paese non ci sia stata una grande sorpresa per questo arresto. No, un po' tutti se l'aspettavano, già parlando con la gente del posto si chiedevano quando sarebbe successo, alla fine oggi più o meno a distanza di un anno l'hanno finalmente arrestato. Tra l'altro la coppia aveva 4 figli, no? Sì, 4 figli, la più piccola ha 6 anni, ha iniziato quest'anno la scuola e la più grande invece frequenta il liceo. E secondo il GIP pare che lui li avesse fortemente condizionati questi figli? Sì, si era raccomandato, cioè, un'intercettazione ambientale di loro che sono in macchina, e in cui lui raccomanda i figli che, nel caso i carabinieri, insomma, o qualcun altro dovesse chiedere se mamma e papà litigavano o meno, mi raccomando, dovete dire che andavano molto d'accordo, non li sentivate mai litigare, perché sennò, usa anche un linguaggio molto forte, dice che sennò poi finisce che ci separano tutti, vedete quello che è successo alla mamma, ognuno poi verrà messo da una parte, chi dall'altra, e dice, poi a un certo punto in una delle intercettazioni, qui a casa ci verranno le prostitute, insomma, le donnacce. Mm. E quindi, cioè, di fronte a un bambino di 6 anni non è molto... Certo. Il GIP, tra l'altro, dice nell'ordinanza d'arresto che Boniconti ha messo in piedi un castello di menzogne, ha posto in essere vani tentativi di depistaggio per allontanare dal sé il sospetto di aver ucciso la moglie Elena Ceste. Sì, lui inizialmente, già la mattina stessa della scomparsa, indica una macchina che apparterebbe al papà di un compagno di classe di uno dei figli, dicendo che era uno di quelli che mandavano oltretutto i messaggi a sua moglie, e quindi indica questa macchina, però poi, a parte che si è visto come questa persona avesse un alibi, e la macchina, questa Golf, oltretutto apparteneva a un'altra persona ancora, quindi ha iniziato a parlare di uomini che ricattavano sua moglie. Però poi non sono mai state trovate le prove di questo ricatto, e poi di questo ricatto dava sempre versioni diverse, cambiava ogni volta a seconda di chi parlava con lui, tempi, modi, più volte entrava in contraddizione su questi filmini, su questi video dove sarebbe comparsa la moglie con cui questi uomini la ricattavano. Mm. E in più, per le ricerche, anche a un certo punto un suo collega indica il posto dove poi è stata trovata la moglie al telefono, ne parla al telefono con lui e lui fa cadere la linea perché sapeva evidentemente di essere intercettato, e per non parlare al telefono la moglie non era ancora stata trovata. Questo collega dice, ma se andassimo a cercarla, insomma, in quel posto lì dove poi effettivamente il 18 ottobre verrà trovata, e lui, preso dal panico, riaggancia. È vero, Erika, sì? Che pare che la procura di Asti in realtà non gli abbia mai creduto? No, mai. Hanno solo preferito essere più prudenti, però non, sin dall'inizio le sue contraddizioni erano evidenti, e il punto che quando finalmente il 18 ottobre viene trovato il corpo di Elena Ceste, si possono fare tutti quegli accertamenti che poi consentono di arrivare all'arresto di Michele, e l'autopsia che stabilisce come questa donna sia stata uccisa, non si tratta di morte naturale, ma morte per asfissia. Quindi morte violenta, di asfissia. Sì. Vedevo le ultime agenzie parlavano del fatto che probabilmente sia stata uccisa nel letto. Sì, uccisa in casa e poi trasferita quasi contestualmente nel posto dove poi è stata ritrovata, Isola d'Asti, in questo sotto questa volta di cemento, dove scorre un piccolo rio, ma che oltretutto era praticamente in secca quando poi quella mattina è scomparsa. E oltretutto quella stessa mattina Michele chiama i vicini per sapere se hanno visto Elena, ma in realtà era per sapere dove erano i vicini, chi poteva vederlo, mentre lui stava, questa è l'ipotesi di accusa, mentre lui stava andando a nascondere il corpo. Senti, di Elena mi pare che appunto dopo parecchi mesi che è morta in quel rio, sì, siano stati trovati in realtà pochi resti? Sì, in effetti Michele Boniconti contava anche su questo. Un corpo in quelle condizioni per 9 mesi, nudo tra l'altro, quindi neanche i vestiti potevano essere trovati. Sì. Sono state trovate praticamente lo scheletro, poi hanno dovuto fare delle ricerche successive per riuscire a trovare altre parti, ma sempre di scheletro si trattava, praticamente la struttura organica non c'era più. E una delle preoccupazioni di Michele Boniconti durante le intercettazioni telefoniche è quella di sapere in che stato fosse questo corpo che era stato trovato vicino a casa sua, per sapere se poteva essere identificato, se che accertamenti sarebbero potuti fare su questi resti. Sembra strano, magari uno vorrebbe prima sapere se è la moglie, se non è la moglie, cioè, un po'. Quindi un castello di menzogne, come scrive il GIP, insomma, a carico di Michele Boniconti. Adesso naturalmente... Sì, oltretutto la premeditazione è data da alcuni aspetti, nel senso lui sapeva già prima del tradimento, però nell'ipotesi dell'accusa c'è anche l'aspetto economico che è importante. Il fatto che la casa fosse intestata a lei ha fatto, insomma, preoccupare anche Michele poi di un futuro, per rifarsi una vita, per arrivare alla fine poi a mettere in atto questo piano. Comunque la premeditazione è un fatto importante. Anche se, Erika, non è stato provato se davvero Elena Ceste avesse contatti con altri uomini o se fosse lui che ha maturato contatti, questa gelosia. Contatti sul suo profilo di Facebook, sul suo telefonino, sì, ma potevano anche essere... Cioè, ha detto a livello amicizia, ma lui comunque questo aspetto diciamo dava fastidio. Io ci ho parlato più volte, lui insisteva nel negare il fatto che la moglie potesse essersi incontrata o entrata in contatto comunque con figure maschili. Cioè, già questa cosa gli creava fastidio. E il fatto che lui sapesse è perché lui usava spesso il telefono della moglie. E c'è una chiamata che Michele fa ad alcuni parenti suoi in una certa ora, e nella stessa ora arrivano dei messaggi di quell'amico, diciamo, di Elena, e quindi questa corrispondenza orale fa pensare che comunque lui abbia letto quei messaggi, visto che il telefonino in quel momento ce l'aveva lui quando sono arrivati i messaggi di questo amico. Insomma, dopo un anno di indagini si è arrivati per il momento a questo esito con l'arresto del marito, con questi indizi molto molto pesanti. Grazie Erika Di Blasi. Grazie, grazie, buon sera, lavoro. Grazie. Ciao Erika. Abbiamo la viabilità, poi voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666. Passeremo poi ovviamente ad altri temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E riecco le notizie in pochi secondi. Naturalmente oggi è la giornata delle votazioni al Quirinale, la prima votazione. Renzi punta su Mattarella, il nome ricompatta al PD, ma fa per il momento arrabbiare Berlusconi. Prima fumata nera comunque per sabato, pronti almeno 580 voti. Poi Atene non fa saltare il banco, positivo è stato l'incontro tra il neo primo ministro Tsipras e il presidente dell'Europarlamento Schulz. Sembra che ci siano degli spiragli di dialogo sull'austerity, e intanto Tsipras reintegra 3.500 statali. Falliti i negoziati con l'ISIS, che annuncia uccidiamo il pilota, nostro ostaggio, disperato appello della moglie del reporter giapponese. Elena Ceste fu uccisa in casa, in manette il marito, trovata morta nella Vellinese, poi la studentessa scomparsa in questi giorni, di Elena Ceste abbiamo appena parlato. E poi per il tesoro ci sarebbe una ripresa diffusa dell'economia italiana, anche le imprese hanno fiducia, boom di mutui, ma le retribuzioni 2014 sono sempre a un minimo storico. E poi vedo anche una notizia che riguarda l'Egitto di questi istanti: si aggrava pesantemente il bilancio della giornata di sangue odierna nel Sinai. Il sito dell'autorevole quotidiano egiziano Al-Aram riferisce che gli attacchi simultanei nella penisola hanno causato 25 morti e 40 feriti. Europa 24 notte. E da un fronte dove appunto si parla di morti, di feriti, spostiamoci in Ucraina. Per quanto riguarda l'Europa, da 9 mesi sapete che nell'est dell'Ucraina c'è un conflitto tra esercito regolare e ribelli filorussi. C'è stata a settembre scorso la firma di un accordo di cessate il fuoco, però la guerra è andata avanti, e l'OSCE parlava proprio in questi giorni, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, di più di 5.000 persone che sono state uccise dall'inizio di questa guerra in 9 mesi. 1 milione è stato costretto a fuggire dal conflitto. Saluto Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore. Ciao Beda. Buonasera. Oggi c'è stato un consiglio degli esteri, un vertice dei ministri degli esteri straordinario, no? A Bruxelles sull'Ucraina. Dovevano decidere su ulteriori sanzioni alla Russia. Come è andata? In effetti Stati hanno deciso ulteriori sanzioni alla Russia, hanno deciso prima di tutto di prorogare di altri 6 mesi le sanzioni mirate contro personalità ed entità russe e ucraine, e poi hanno chiesto alla Commissione di preparare ulteriori potenziali misure, probabilmente sanzioni economiche. La Commissione lo dovrà fare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e queste misure verranno discusse dai capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea il 12 febbraio. Mi pare che però ci siano ancora degli spiragli, e comunque per il momento mi sembra che sia l'unica arma, diciamo così, questa delle sanzioni, Beda, sì, da parte dell'Europa. Assolutamente. Il vertice è stato in realtà segnato a sorpresa dalla posizione greca, che nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ha assunto nei confronti di questa vicenda una posizione controversa. Il nuovo governo presieduto da Alexis Tsipras ha deciso di prendere posizione a fianco della Russia, ha criticato le sanzioni europee nella vicenda ucraina, e il nuovo ministro greco degli esteri è arrivato a Bruxelles minacciando il veto contro queste sanzioni, contro queste nuove sanzioni europee. Lo ha fatto, ma alla fine hanno trovato un compromesso, un accordo c'è stato, e ho l'impressione che i greci stiano in parte almeno su questo fronte facendo marcia indietro. E infatti quello che non mi spiegavo con la notizia che ho visto in realtà forse un'oretta fa della Russia, che si è detta disponibile a dare aiuti finanziari alla Grecia, e per quello che ho detto, ma come mai improvvisamente decide di dare degli aiuti finanziari alla Grecia? Probabilmente era stata per questa mossa, immagino, Beda. La cosa è buffa, nel senso che naturalmente tra Grecia e Russia vi è un forte legame religioso, perché i due paesi hanno la stessa religione, e quindi è comprensibile questa vicinanza. La cosa divertente è che Tsipras e il partito Syriza probabilmente vede nella Russia l'erede dell'Unione Sovietica per certi aspetti. Noi sappiamo che questo partito appartiene alla sinistra radicale, e sappiamo che vi sono alcuni elementi nel partito che erano vicini all'Unione Sovietica durante la guerra fredda. La cosa divertente è che questo partito, e soprattutto Tsipras, è laico, molto lontano dalla religione ortodossa, tanto che Tsipras ha giurato all'inizio di questa settimana, in assenza del Pope, cosa che normalmente non avviene, il primo ministro greco giura nelle mani del Pope. Quindi è un partito laico, mentre la Russia sta diventando sempre più religiosa. C'è stato un revival religioso ortodosso in Russia negli ultimi anni, quindi è buffo questa nuova vicinanza tra la Russia e la Grecia. Grazie Beda Romano, ciao Beda. A presto, arrivederci. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Cambio completo di tema, parliamo di minorenni e gioco d'azzardo. Vi sono dei dati allarmati che emergono da una ricerca secondo la quale stiamo probabilmente crescendo una generazione di futuri giocatori d'azzardo. Una ricerca presentata in questi giorni, realizzata tra novembre e dicembre 2014 nell'ambito di un'indagine sugli stili di vita giovanili, ed è curata dal centro di ascolto della Casa del Giovane di Pavia, tra l'altro una città che ha un triste record per il gioco d'azzardo, diretto dallo psicologo Simone Feder, che saluto. Buonasera Feder. Buonasera. Psicologo che lavora da anni appunto nell'area giovani e dipendenze, giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Davvero bisogna preoccuparsi quindi di questo fenomeno tra i più giovani, Feder? Ma bisogna preoccuparsi anche perché è triste sapere che la paghetta se la buttano e se la spendono settimanalmente in abitudini disfunzionali come le sostanze stupefacenti, non dimentichiamo l'azzardo. E pensi minorenni ci dicono il 12% la buttano in azzardo, così come il 27% di loro in alcol. Ma più si cresce all'aumentare dell'età, sempre nel campione, siamo sempre sotto i 18-19 anni. Quando si parla di maggiorenni di questa ricerca, si arriva addirittura a punte che il 29% della paghetta buttano in azzardo, il 46% dell'alcol e il 15% di sostanze stupefacenti. C'è una generazione che urla e che necessita assolutamente di, di, di essere ascoltata, di pensare a degli interventi. Poi la cosa triste che ho visto crescere in questi anni, tengo presente che siamo partiti perché appunto cercavamo di dare una risposta a un bisogno che ci portava un ragazzino dove diceva aiutatemi ad aiutare mio papà, e capisce che quando si toccano i minori, si chiede ai minori di educare i figli e i genitori, questo è assurdo. Ma la cosa triste è che vedo sempre più aumentare questo gioco d'azzardo anche online, che gli americani lo definiscono, e anch'io lo definisco così, come peggio del crack. Negli Stati Uniti il gioco online è vietato in quasi tutti gli stati, non è concesso a uno stato poi attirare giocatori online residenti in altri stati, ma qui in Europa forse si sta lasciando passare simili barbari, ecco, soprattutto anche in Italia. Feder, ma che cos'è? Qual è la principale attrattiva sui più giovani da parte del gioco d'azzardo? Cos'è che più li attrae? Qual è il motivo principale? Allora, innanzitutto c'è una scarsa consapevolezza di considerare azzardo anche quello che poi loro considerano sicuramente che crea dipendenza. Mi riferisco a gratta e vinci e scommesse. E in aumento spaventoso sono le scommesse in questi anni, scommesse sportive soprattutto, si scommette ogni 3 minuti. Noi abbiamo un campione che ci ha risposto che il 43% di loro afferma di aver già giocato, stiamo parlando di minorenni, a gratta e vinci, il 20% già alle scommesse sportive. Poi c'è sempre le slot che tengono sul 10% e l'8% ormai scommette anche e azzarda su internet. Per cui oggi è preoccupante soprattutto il mondo delle scommesse, ma ci accorgiamo che chi gioca con maggior frequenza sono chi gioca d'azzardo online e alle slot machine, perché nel campione, quando andiamo ad analizzare le frequenze di gioco, chi gioca ogni giorno dichiara che il 13% gioca alle slot, 12% gioca d'azzardo in internet e 5% gioca alle scommesse. Sono consapevoli, Federico, i più giovani che sia una cosa che può anche degenerare questa, che può essere pericolosa? Beh, c'è sempre in loro questa voglia di rischiare, questa onnipotenza di sentirsi padroni del mondo, per cui la consapevolezza c'è fino a un certo punto per loro. Bisogna sempre più aiutarli facendo con loro delle esperienze. Ecco che il grido d'allarme ci arriva soprattutto dalle scuole. Noi è da anni che lavoriamo con istituti scolastici, ormai siamo presenti anche in altre parti d'Italia, perché chiedono tutti un aiuto anche per affrontare questa emergenza sociale, perché qui si tratta proprio di siamo a un default, oserei dire, anche educativo, che ne pagheremo caro il prezzo. Loro ne sono consapevoli fino a un certo punto. Grazie Simone Feder, grazie intanto anche per il suo grazie lavoro. A voi. Grazie, salve. Buona serata. Ringrazio Cristian Goldoni, alla parte tecnica Pietro Lacorte, e da Roberta Giordano. Buon effetto notte a tutti.